Euroreportage. Europa creativa, quando la cultura unisce. Di Alessandra Schepisi. Twintig jaar geleden daverde de Belgische samenleving op haar grondvesten. Una sorta di esortazione, no? Una sorta di invito a tutti di fare qualcosa per mantenere vivo il villaggio naturalmente inteso come nucleo da cui partire per intervenire poi in qualche maniera sulla società, insomma mantenere un luogo, una dimensione, una posizione da cui appunto in qualche maniera reagire, dunque non una riserva indiana, non un luogo protetto ma un luogo, un punto di partenza, ecco. Come cambiare, come modificare, come rilanciare il presente? Keep the village alive, teniamoci svegli e mai come ora ce n'è bisogno a Roma e non solo, in tutta Europa. Keep the village alive è il titolo dell'undicesima edizione dello Short Theatre, festival poliedrico andato in scena a Roma dal 7 al 18 settembre. Tra gli spettacoli più applauditi quello di Milo Rau, regista svizzero, protagonista di un nuovo modo di fare teatro politico che ha portato il durissimo Five Easy Pieces in scena a sette bambini per raccontare le vicende del pedofilo belga Marc Dutroux. Teatro, danza, musica, arti visive, tante prime assolute con grandi nomi della scena internazionale, 49 compagnie, 15 straniere, 34 italiane, oltre 150 artisti internazionali. Partiamo da qui perché è un esempio di network europeo che funziona grazie al sostegno di Europa Creativa, il maxi programma dell'Unione Europea per promuovere la cultura e le interazioni tra diversi paesi in diversi settori. Partiamo da qui dunque dal teatro per raccontarvi un'Europa diversa da quella della burocrazia, della finanza, dell'economia, l'Europa della cultura, forse un'altra Europa, forse più unita. Fabrizio Arcuri, direttore di questa rassegna. Succede che si alternano spettacoli di teatro, danza, musica e tutto quello che in qualche maniera noi possiamo definire cultura contemporanea, dal clubbing agli incontri a riflessioni, e comunque sostanzialmente è un luogo dove le persone possono andare, incontrarsi, confrontarsi e cercando un po' di entrare dentro quello che si costruisce all'interno di un ambito molto, diciamo, specifico che quanto di nuovo si trova in Europa e non solo in Italia. Noi partecipiamo a tre progetti della Comunità Europea che naturalmente ci danno, come dire, insomma, no? Una forza, una linfa vitale, perché effettivamente, diciamo, ci permettono ovviamente di entrare in relazione con strutture e situazioni che altrimenti sarebbe un po' difficile, insomma, no? Perché poi comunque la situazione italiana è una situazione abbastanza particolare, insomma, ed è sempre appunto molto faticoso, insomma. E invece essere dentro dei network internazionali ci dà la possibilità appunto di fare delle cose importanti, come succede quest'anno con i Digistan, che sono una delle compagnie europee più importanti. Un paio d'anni fa il Festival d'Automne di Parigi gli ha dedicato una retrospettiva, o Milo Rau, che è un regista svizzero che sicuramente è il più interessante di questi ultimi anni. Penso a Tiago Rodriguez, che è il giovane nuovo direttore del Teatro Nazionale di Lisbona, un punto centrifugo sostanzialmente, no? Un punto da cui si possono poi appunto diramare energie e quindi incontro, scambio e anche interazione sostanzialmente tra gli artisti, ma anche per il pubblico è un momento per vedere che cosa succede e quali sono, diciamo così, le effervescenze non solo del territorio ma anche a più ampio raggio. Lavori in un ambiente creativo? Forse sei un regista? Oppure una scrittrice? Magari sei un artista. Qualunque sia il settore culturale o creativo in cui lavori, l'Unione Europea può darti una mano. E qui Europa Creativa entra in gioco. E dal teatro alla musica, dalla letteratura alla danza, ma anche all'artigianato, la moda, il design, tutto ciò che è creativo, se anche interconnesso e condiviso, in Europa viene premiato. 1,046 miliardi di euro i finanziamenti previsti fino al 2020. Per ottenere un finanziamento occorre partecipare con progetti che soddisfino determinati criteri. Explora, il Museo dei Bambini di Roma, da anni attraverso i fondi europei porta avanti progetti molto interessanti. La direttrice Patrizia Tomasic. Una cosa bella che devo dire, diciamo, di questo programma, o questo, diciamo, succede in quasi tutti quanti i programmi europei, è che ti permettono di crescere e quindi di capire anche dove sbagli, perché progettare e presentare un progetto è, se viene chiamata europrogettazione, ma è una, non dico che sia una cultura, però diciamo, ecco, è anche proprio un lavoro molto... È complicato, insomma, non è semplice. Complicato no, è complesso, perché è molto articolato, è molto esigente, diciamo, come tutti i programmi, anche il programma cultura, è esigente nel senso che chiede veramente, ecco, non è che uno può pensare, no, dice ok, prendo i soldi, va, no, non è così, bisogna, infatti oggi... Ci sono anche dei criteri, no? Insomma, non è che vengono dati così a pioggia. Assolutamente, sono dei criteri, ma la cosa bellissima è che quando uno si presenta il progetto, che poi tra l'altro sono sempre progetti transnazionali, minimo 3 paesi, si presenta e dopodiché si ha una risposta scritta, che devo dire che purtroppo il nostro paese non è spesso, non succede così con gli altri bandi nazionali, cioè si ha una risposta, si ha una valutazione e si ha anche 2 o 3 pagine di questa valutazione dove ti dice esattamente dove secondo loro tu hai sbagliato, quindi con un punteggio ma anche con un contenuto, con una valutazione del valutatore. Questa valutazione permette, e spesso noi sbagliamo i bandi, ma questa valutazione ci permette di poi dopo ripresentare anche magari lo stesso progetto l'anno dopo e alla luce degli sbagli commessi, se uno poi dopo ci ragiona bene e fa appunto un lavoro di non dico di modifica e di correzione, ma dietro i suggerimenti, poi dopo di solito i progetti dopo si vincono. E poi si ottengono i finanziamenti. Si ottengono i finanziamenti che seguono appunto un budget. Quest'anno con Europa Creativa, cioè dal 2014, il budget di finanziamento di copertura che viene dato è del 60% prima e del 50%, che vuol dire che il 40% viene messo poi dopo dai partner. Mi fa qualche esempio di progetti che avete presentato? Quest'anno siamo su un progetto che si chiama Chic, che è molto carino, ha vinto il partner capofila, è francese, è un progetto di maker con l'obiettivo di creare poi dopo dei prototipi di macchine dopo da utilizzare, partendo dalla tipografia, dalle, diciamo, lettere tipografiche, dal lavoro. Poi c'è stato anche un importante progetto sulla tessitura che in realtà va avanti. Quello era, si chiamava Weave ed è stato un progetto sulla tessitura, diciamo su quello che era la tradizione tessile italiana, ma poi anche in Bulgaria, ma poi anche in Olanda. Ed è stata un'attività bellissima, noi l'abbiamo fatto con l'Olanda, quindi siamo andati in Olanda, poi dopo gli Stati Uniti sono venuti noi, siamo andati in Bulgaria, eccetera. E ognuno di noi ha dato un... ha portato un valore, una tradizione, una cultura, ad esempio sul tessile. Da allora, dal 2014, abbiamo potuto offrire e continuamente continuiamo a offrire laboratori che hanno avuto quella possibilità di esperienza e quell'esperienza grazie a quel bando. Quindi tessitura tecnologica, tessitura su feltro, la lavorazione, diciamo, del feltro, cioè come si fa il feltro, acqua, sapone, lana, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono alla fine non solamente finanziamenti, ma sono anche ottimi spunti per un lavoro, cioè per un lavoro, ma anche per il proprio lavoro, quindi di avere anche il contributo, diciamo, degli altri partner. Europa Creativa offre a persone come te, sì, proprio come te, la possibilità di ottenere finanziamenti e sostegno per i tuoi progetti. E l'Italia è tra i paesi più attivi nelle proposte nell'inventare circuiti. Siamo quarti nell'assegnazione dei budget di Europa Creativa nel 2015. È un sistema collaudato, come spiega Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo e tra i promotori di Europa Creativa. Europa Creativa è un nuovo programma che è stato approvato nel 2014, cioè nel 2013, alla fine del 2013, ed è entrato in vigore nel 2014 ed è un programma settennale, come tutti i programmi pluriennali europei. E per la prima volta sotto un unico programma sono riuniti quelli che prima erano 2 programmi separati, il programma media, molto conosciuto, dedicato soprattutto all'audiovisivo, al cinema, adesso anche alle produzioni via web piuttosto che alle coproduzioni europee, eccetera, e l'altra che è quella che un tempo era il programma Cultura, che adesso si trova sotto legge di Europa Creativa. E molto spesso dico che al di là del fatto che si vinca o meno, perché lei capisce che c'è ancora una grande forbice fra quanti progetti si presentano e quanti poi riescono a vincere, che poi si tratta di mettere insieme anche più paesi, una governance abbastanza complessa, e poi c'è una selezione che naturalmente può premiare o meno, ma è comunque una spinta anche, come diceva lei, a abituarsi a lavorare insieme anche in modo transnazionale, a creare dei partenariati che poi possono essere rafforzati e poi presentare altri tipi di progetti e comunque lavorare insieme, diventare un po' meno provinciali per certi versi e imparare anche e anche trasmettere le proprie esperienze, imparare anche per gli altri, e soprattutto a cercare di innovare il modo in cui si propone, diciamo così, il prodotto servizio culturale a target di pubblico che sono molto diversificati ormai, a saper dialogare anche con diversi ambiti. Penso per esempio a tutto il tema dei giovani piuttosto che gli stranieri in Europa, piuttosto che ai target più esigenti, no, dal punto di vista della qualità. Quindi insomma è una grande palestra di cultura europea e di creatività europea che in qualche modo cerca di migliorare anche la cultura del pubblico. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.